con Roberta Castelluzzo del Teatro Furio Camillo per parlare di Battiti, rassegna internazionale di circo teatro al Teatro Furio Camillo per l'appunto a Roma dal 15 novembre al 2 dicembre. Roberta, ben trovata. Che Ciao, grazie, ben trovato. ci dici dell'edizione di quest'anno? Quest'anno un'edizione particolarmente ricca, dura un mese intero praticamente, e ci saranno spettacoli, workshop, abbiamo artisti che vengono da diverse zone dell'Italia e anche dall'estero. Ci verrà a trovare di nuovo Stefan Singh dalla Germania, un giocoliere straordinario che abbiamo ospitato già in passato. Diciamo, c'è molta aspettativa. Allora, sesto anno, com'era cominciato tutto? È iniziato 6 anni fa con una rassegna di una settimana molto minimal, con pochissimi ospiti, sperando in un futuro migliore, anche pochi spettatori dalla prima edizione. Adesso, andando avanti con il tempo, dobbiamo pregare chiunque di prenotare perché i posti non bastano. Quindi direi è stato un grande successo. Quanti sono gli eventi? Allora, gli spettacoli sono uno ogni settimana, scusami, uno ogni fine settimana, più il venerdì e anche un evento speciale il primo giovedì, il 15 novembre, che è un cabaret di circo teatro che apre la rassegna, collaborazione con la compagnia che si chiama La Settimana Dopo, che è una compagnia con cui collaboriamo durante tutto l'anno. Un totale di 6 spettacoli per adulti, 3 spettacoli per bambini, un workshop e una mostra fotografica. Ecco, parlavi del fine settimana, come è strutturata la rassegna? La rassegna ha il workshop infrasettimanale il 19 e il 20 novembre. Poi il venerdì ci sono spettacoli la sera alle 21, così pure il sabato, mentre invece la domenica c'è un doppio spettacolo, uno la mattina per i bambini alle 11 e uno pomeridiano alle 18. Per tutta la durata della rassegna ci sarà una bellissima mostra fotografica di Marco Bellucci, che ha dedicato un suo racconto fotografico alla creazione dello spettacolo Mebiemti, che è lo spettacolo di giocoleria che chiude la rassegna. Sesta rassegna, sesto anno, ci racconti anche un po' come sta evolvendo il circo teatro a livello internazionale? A livello internazionale evolve, e a livello italiano che evolve poco. Diciamo che in Europa c'è tanto movimento, c'è tanto scambio tra compagnie, ci sono importanti scuole di circo, importanti realtà di ricerca. Purtroppo in Italia, non essendoci un vero e proprio riconoscimento del circo teatro, è sempre molto difficile. È nata un po' come una scommessa questa rassegna, con l'idea proprio di far incontrare artisti che da varie parti del mondo potessero avere un punto di riferimento anche nel centro Italia. Nel nord magari è un pochino più semplice, essendo più vicini alla Francia. Nel centro Italia questo manca completamente. Quindi l'idea della rassegna era proprio quello di essere un punto di riferimento e di fare del Teatro Furio Camillo un luogo di accoglienza delle compagnie che volessero dedicare del tempo anche alla ricerca nel circo teatro. Quindi diciamo durante tutto l'anno il Furio Camillo accoglie un bel lavoro di ricerca soprattutto per la danza aerea, l'acrobatica e la giocoleria. Da un paio d'anni è anche la sede dell'Accademia Materia Viva, quindi questo ci permette anche di ospitare diversi insegnanti che ci vengono a trovare da diverse parti d'Italia e dall'estero. Però la rassegna Battiti resta sempre il momento in cui giocolieri, acrobati, equilibristi e gente folle da tutto il mondo passa dal Teatro Furio Camillo ed è una festa. Ecco, le tre sezioni che hai nominato, immagino che siano le tipologie di spettacolo che vanno per la maggiore. Sì, sicuramente l'acrobatica aerea, tantissimo, molto seguita da noi a teatro, però anche la giocoleria. Diciamo, quest'anno abbiamo in particolare, come ti dicevo, come ospite speciale Stefan Singh con lo spettacolo Entropia, ed è una prima italiana assoluta. E poi ci sono anche altri spettacoli che coniugano sia la giocoleria che l'acrobatica aerea e concludiamo di nuovo l'1 e il 2 dicembre con Mebiemti, che è di nuovo uno spettacolo soltanto di giocoleria. Senti, Il alcuni. resto sì, acrobatica e acrobatica aerea sono un po' le protagoniste assolute della rassegna. Alcuni dei lavori che ospiterete avranno anche altre occasioni nel corso dell'anno, sempre da voi? È molto difficile perché sono compagnie che vengono da lontano. Senza finanziamenti, riuscire a ospitare compagnie da fuori è difficilissimo, veramente difficilissimo, però ci piacerebbe. Sicuramente ritorneranno a trovarci gli acrobati della compagnia Sottovuoto, che in rassegna il 30 novembre ci propongono uno spettacolo bellissimo che si intitola Che coppia, e poi durante l'anno torneranno a trovarci con dei workshop di acrobatica aerea e di palo cinese. Ci lasci tutti i riferimenti per seguire la programmazione? Abbiamo creato un sito specifico per la rassegna e si chiama proprio Rassegna Battiti, quindi basta cercare rassegnabattiti.it e si trovano tutte le informazioni. Al Teatro Furio Camillo, che è vicinissimo, facile da raggiungere anche con la metropolitana, così non dobbiamo prendere la macchina e inquinare. Diciamo, mezzi permettendo, siamo vicino alla metropolitana. Sul sito del Teatro Furio Camillo trovate tutte le indicazioni. Quindi o teatrofuriocamillo.it o rassegnabattiti.it, e dal 15 novembre in poi veramente sono spettacoli per tutti. Battiti, sesta edizione della rassegna internazionale di Circo Teatro al Teatro Furio Camillo dal 15 novembre al 2 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Roberta Castelluzzo. Grazie, grazie a voi, sempre preziosi. Un abbraccio e a presto. Ciao.